Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Possiamo dire che in questa casa tanto tempo fa sorgeva un fortino di militari, quindi sappiamo che anche dei vicini hanno avvertito questo tipo di presenze, no? Sì. E è stata vista una figura a girarsi qui intorno, pare che sia un soldato, e si è visto anche in questa casa? Sì. Ok, quindi si tratta anche di fenomeni di apparizioni. Bene, io ti ringrazio Diana per la testimonianza e direi che non ci resta che indagare. Lo giuro sull'anima inquieta di mio nonno, o quieta, che ne so, buon per lui, se quieto, che questa mattina non prenderò in giro chi mi racconta storie di fantasmi, però mi sono incuriosito, tutto nasce da un'agenzia di stampa che ho visto proprio questa mattina, che parla dell'uscita di un libro che racconta storie di fantasmi in tutta Italia. Mi sono fatto mandare il PDF del libro, sì, è vero, città per città, regione per regione c'è un compendio esattissimo di fantasmi visti e avvistati. Quindi qualcuno ha raccontato all'autrice, che avremo fra poco al telefono, di aver visto dei fantasmi. E mi sono meravigliato perché pensavo che la visione dei fantasmi, la capacità di vedere i morti inquieti che non lasciano questa terra perché hanno sempre qualche conto aperto da sanare, facesse parte di una sorta di iconografia passata, di una fantaletteratura oggi sorpassata dalle pluridimensioni spazio-temporali della nuova narrativa fantastica. In sé lo spiritismo nasce come disciplina esatta, come una sorta di impugnare il rigore della scienza, però dando comunque un aspetto che assomigliasse tanto alle antiche religioni che il Novecento aveva relegato con un termine lapidario: Dio è morto. Dio è morto, sì, ma hanno cominciato a fare esperimenti, a usare le macchine della tecnologia, della nuova tecnologia, dell'elettricità, della fotografia, via dicendo, per segnalare la presenza di porte aperte tra il mondo dei trapassati e il mondo dei vivi. Quindi cominciano a fare queste foto di ectoplasmi, questi fantasmoni che venivano, facce ispirate che raccontavano a tutti il loro destino. Ma poi pensavo che nel tempo fosse finito l'avvistamento dei fantasmi, salvo che in qualche rubrica televisiva, che ancora, visto che si parla di tutto, da malattie imbarazzanti a organizzazione di matrimoni, si parla anche di fantasmi. Sono questi, il format funziona così: ci sono dei signori che vanno con una fotografia agli infrarossi, che non si vede nulla, in dei posti che si presume siano infestati, e sentono le presenze, e le persone raccontano che lì sì, in effetti una volta c'era stato uno che si è ammazzato con i Black Decker e quindi rimane lì ancora inquieto e via dicendo. Quindi giuro veramente, non vi prenderò in giro, però fatemi capire esattamente se anche voi fate parte delle persone comunque hanno l'idea che qualcosa c'è, qualcosa di strano c'è, forse proprio vero, e questa è la nostra antica insanabile speranza, qualcosa esista oltre la nostra morte biologica e qualcuno possa tornare indietro. Insomma, avete visto qualche fantasma? Avete notizia certa di avvistamenti di fantasmi? Ma mi interessano i fantasmi recenti, non quelli classici, antichi. Per esempio leggo che a pochi metri dove vi sto trasmettendo io, accanto a un'area della stazione Termini che chiamavano il Palazzo dei Cornuti, hanno fatto il Palazzo dei Ferrovieri e ci hanno messo due cervi davanti, non l'avessero mai fatto. Infatti è un palazzo sfigatissimo, c'è un ristorante che apre, sta aperto un anno, due anni, poi richiude. Ci sono questi due cervi con ste corna, tanto che di notte qualche ferroviere è andato anche a tagliarle. Beh, da quelle parti, nei pressi del Teatro dell'Opera, che è poco più in basso, sembra che si aggiri il fantasma di Maria Callas, che ogni tanto andava da quelle parti a cantare, quindi c'è caso che una sera, tornando alla radio, io la possa incontrare. 800 24 00 24, tra un istante. Melog, cronache meridiane. Sono abbastanza inquietanti. Anche la torcia, che prima sembrava impazzita, adesso è perfetta. Ho avuto delle sensazioni particolari sin da subito, soprattutto nello scampinato. All'improvviso tutto si è acceso contemporaneamente. In questa casa succedono molti fenomeni. Freddo. Ho freddo. Sento nell'aria, c'ho la pelle d'oca. Sì. Ecco, anch'io ho la pelle d'oca, questi sono i Cacciatori di Fantasmi, che è un format televisivo che ho detto che ha un discreto successo. Signori con grandi tecnologie vanno in giro per case presunte infestate e trovano i fantasmi. Quali sono i sintomi del fantasma? Beh, innanzitutto si sente improvvisamente l'aria ghiacciata, si sentono i brividi perché il nostro istinto ci avverte che c'è una presenza fantasmatica, penso pelle d'oca, si rizzano i capelli, e poi cigolii, rumori strani, passi, ansimare, se stiamo a letto sembra che qualcuno si appoggia sulla nostra pancia, insomma non è che è proprio una cosa allegra. E poi qualcuno li vede pure, li vede, poi ci sono quelli che ci parlano. Una volta vidi una seduta di scrittura automatica, ci andai col mio cagnolino che abbaiava, mi disse: vedi, il tuo cagnolino sente la presenza che tu non senti. 800240024, parlatemi delle vostre presenze. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Volevo, siccome ha detto che voleva qualche testimonianza sulla veridicità della presenza di fantasmi, gliene dico una. Lei ha la presenza? Prego? Ha la presenza lei? Sì, era presente il medium, che il mio amico, che l'ha vista, perché noi sappiamo che c'è, ma lui l'ha vista. Però lei no, l'ha vista il suo amico, ma non l'ha vista lei. Ha visto il medium, che è il più accreditato secondo me a vederlo. Certo, come no, se no che medium è. Cosa ha visto esattamente? Praticamente questo era in viaggio, l'abbiamo ospitato per una sera, prima di cena l'abbiamo andato su a fare una doccia, poi è sceso tutto imbarazzato, cioè non sapeva se dircelo o non dircelo, finché a un certo momento il suo mio assistente ha detto: ma cosa c'hai? E dice: sapete che qua sopra c'è una presenza, c'è una signora, io l'ho vista, dice, era lì in camera. Cioè l'ha visto nudo mentre faceva la doccia, la signora fantasma? No, lui faceva la doccia, poi quando è tornato in camera l'ha vista, ma noi sappiamo perché è leggenda, diciamo, è fatto storico, che la signora proprietaria del fondo si era suicidata lì, in quella casa, che era una casa colonica della sua proprietà. Ma lei ha mai avuto, diciamo, altri sintomi della presenza della signora suicida? Sì, come no, ce ne sono tantissimi. E me li dica, perché siamo qui, una trasmissione scientifica. Sono un po' sconvolgenti, mi creda. Mia moglie, per esempio, ogni tanto si sente slacciare il grembiule da dietro, oppure sente la presenza, si chiude una porta. Cioè, ci sono parecchie testimonianze, ha capito, di questa cosa. Cioè, qualcuno da dietro fa sentire la presenza sua moglie e gli slaccia il grembiule? Praticamente si trova lì, vede trovando i piatti, si trova i grembiuli. Sente una presenza alle sue spalle e le slaccia il grembiule. Beh, questo è inquietante, comunque. No, è inquietante sul serio, tanto che non ci pensiamo molto, ma è inquietante. Ma ormai ci convivete col fantasma della signora? Ormai ci conviviamo, esattamente. Ma avete trovato foto, testimonianze? Sapete com'è fatta questa signora? Sapete tutto di lei, o no? No, chi ha venduto, cioè diciamo che i vicini e chi ha venduto il fondo, la vecchia casa colonica di una grande proprietà, questa era la padrona, la proprietaria, innamorata di un soldato, non so come, non so quando, a un certo momento si è suicidata lì. Sì, che il soldato l'ha sedotta e poi abbandonata, come fanno sempre. L'ha sedotta, probabilmente l'ha abbandonato, oppure era un numero impossibile. Vabbè, e adesso sta lì ancora, buon per lei. Grazie, Piero. Piero Puro, un'altra testimonianza, ci sono subito. Io sapevo che andavo a toccare un terreno fertile. Piero, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Lei ha a che fare con un frate fantasma? Allora, sì. Allora, le spiego la mia storia. Io adesso ho 54 anni, ma quando ne avevo circa 20 ho perso mia mamma. Sì. E mi sono trasferito in un paesino per il lavoro di mio papà. All'epoca io studiavo nel paese di origine, poi nostra, della famiglia, che è in Friuli, e insomma non era un periodo molto, molto piacevole, molto bello per me, perché poi vivevamo io e mio papà da soli lì, mio papà era impegnato con il lavoro, io studiavo, pensavo a questa cosa mi era successa, era un periodo molto, molto particolare, ero molto triste, ero molto giù. E quindi? Un pomeriggio mi avvicinai, ma perché c'era un piccolo campetto da tennis vicino alla parrocchia di questa, dove c'è anche il chiosco della chiesa del paese. Sì. E a un punto vidi un frate, ma proprio un frate che era lì, che stava leggendo. Giocava a tennis o stava lì? No. Sinceramente era, comunque accanto a una parrocchia è abbastanza normale vedere un religioso, no? Sì, esatto, per cui io più di tanto non ebbi nessun problema. Che ordine era? Che saio aveva, per curiosità? Marrone, io me lo ricordo. Ah, un francescano, questo, un classico francescano. Ecco, vestito marrone. Io lì andai, mi sedetti vicino a lui, ma perché passando lui mi guardò e lui mi quasi invitò a sedermi a parlare. Beh. E incominciamo a fare una chiacchierata che durò, non so, una ventina di minuti, una mezz'ora, ma mi diede molta pace, perché questa persona mi... Ma era un frate in carne e ossa, normale, come un'altra... In carne e ossa, una persona che io avevo lì, che vedevo lì. Cioè lei parlava con una persona viva. Io parlavo con una persona viva. E quindi quando invece che era? Poi ovviamente io tornai a casa, finito tutto, così. Però mi rimase questo piacere di questa persona che io volevo tornare a incontrare. Se non due giorni dopo, tornai su in parrocchia e cercai, non vedevo nessun prete, parlai con la perpetua chiedendogli: scusate, ma qua c'era due giorni fa, c'era questo c'era frate. E questa qua mi disse: frate, fa, no, non lo so, fa, non è qua da noi, non è ospite nella parrocchia. Ho detto: ma come? Ma era qui, ma era proprio qui, era seduto qui, che fa, ma no. Cioè, non lo so, può darsi che sarà stato un altro frate. Se andiamo al punto, nessuna... sì, è bella storia, ma sintetizziamo. E quindi, quando ha scoperto? Non c'è nessuno, poi io ho cercato di trovare... Ma c'era un frate morto, paese, qualcosa? Qualcosa, in paese, niente. Ho parlato poi col parroco, ho detto, ma scusate, ma c'era un frate... Io ho parlato con questo frate, una persona squisita... Sì, ma perché dovrebbe essere un fantasma, scusi? Può essere un frate di passaggio che vuole stare in incognito? Si è fermato un attimo? Ma non credo. Non credo, perché aveva il cordone un po' così piccolo, in un paesino così piccolo, che nessuno si ricordi della presenza di questa persona che è apparsa in quel momento, mi diede una pace immensa. Cosa vabbè, è stata comunque questa, direi, rientra più nell'ambito delle visioni mistiche. È un frate che le ha mandato la provvidenza per calmarle, ma se lì fosse morto un frate impiccato aveva un senso, era un fantasma. Non, io non lo annoverrei nella diciamo... Per la mia fede è stato mandato da mia mamma. Ah, un frate fantasma o un frate concreto? Per me, che sarà stato concreto, che si è manifestato... Sua mamma ha mandato un frate, vabbè. Per me, mia mamma, in un momento che mi vedeva nella grandissima disperazione che stavo vivendo in quel periodo, in un po' di solitudine e quant'altro. E le ha mandato un frate a confortarla. Esattamente. E questo buon per lei. Se questo le fa bene credere, è giusto che lei lo creda. Anna Maria Ghedina, buongiorno. Buongiorno. Allora, io l'ho fatta ascoltare un attimo, ho fatto un esperimento. Sì, ho ascoltato tutti i fantasmi. Ho fatto un esperimento, vuol dire, una trasmissione normalmente si parla di attualità, di fatti concreti. Proviamo una mattina, visto che mi ha incuriosito l'idea, ho visto l'agenzia del suo libro, mattina parla di fantasmi e la reazione è stata questa. Ricordo che Anna Maria Ghedina è autrice di Guida ai fantasmi d'Italia, dove cercarli e dove trovarli. È in libreria, edizioni Odoia, proprio da un paio di giorni. Lei ha fatto un bel giro in tutta Italia, mi sembra di aver capito. Sì, sì, io già mi occupo di fantasmi da parecchio tempo. Quindi lei cos'è, una medium, una cerca fantasmi? No, non mettiamo in mezzo queste... Comunque ci crede, ecco, ci crede, non è scettica, diciamo. Io sono una giornalista che mi interesso, diciamo, mi sono interessata di questo settore perché molti anni fa feci un servizio sui Ghostbusters qua a Napoli. E naturalmente, facendo un servizio su Ghostbusters, sono venuta a contatto con tanti fantasmi, al che ho scritto il mio primo libro, che era Guida ai fantasmi di Napoli e dintorni, che è stato una sorta di bestseller, ho venduto tantissimo, perché naturalmente ho scoperto che a Napoli ci sono tanti fantasmi. E poi ho scritto vari libri sull'argomento. Poi vedo che lei ha girato tutta Italia, in ogni città. Io, vivendo a Roma, sto girando nelle pagine dedicate a Roma. Al di là dei fantasmi storici, grandi personaggi, cominciano a venire a galla anche i fantasmi morti più recentemente. Sì, sì, ma voglio dire, io li chiamo i fantasmi metropolitani, che sono quelli che non hanno delle storie, diciamo, private, come i signori che stanno telefonando, come capita a me quando sono andata a presentare il libro, sono venuta anche a Rebibbia a presentare Fantasmi a Napoli un po' di anni fa, e anche tra i carcerati c'erano parecchi che avevano i fantasmi. Vabbè, lì stanno soli tanto tutto il giorno, è chiaro che ogni tanto... Sì. E vedo che ogni volta che mi capita, diciamo, di incontrare oppure fare convegni, cose, insomma, ognuno c'ha sempre il suo fantasma. Quindi, diciamo, è un terreno fertile. È un terreno fertile perché anche coloro che... Io dico sempre alla Edoardo, non è vero, ma ci credo. E vedo che, insomma, parecchia gente appunto ha il suo fantasmino, non c'è il suo, o è un diciamo come il signore che gli è apparso, questo monaco che forse sarà stato mandato da sua madre, eccetera eccetera. Certo, una madre che manda un frate al figlio, cioè di tutta la specie umana che... Ma guardi, io le racconto una cosa che mi hanno raccontato, una signora che, alla quale era morto il figlio le venne in sogno e le disse: cara mamma, io pensavo che quando uno è morto stava in pace. Dici, io qua sto lavorando peggio di quando ero vivo. E dov'era finito? Non lo so, stava su, si vede che evidentemente anche quando diciamo andiamo nell'altra dimensione abbiamo un compito da portare avanti probabilmente. E lui pensava di riposarsi da morto. Pensava di riposarsi da morto e ci dice: cara mamma, io qua sto lavorando peggio di prima. Allora fermiamoci solo un secondo, dare la linea. Graziella, resti in linea. Graziella ha una storia di fantasmi e ne vede parecchi. Questo, vediamo, Graziella? Sì, Graziella, storia di fantasmi. E quindi aspetta un attimo, fra un po' ci parliamo. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Melog, cronache meridiane. Siamo in questa abitazione di Roberto Ferrari. In questa casa succedono molte cose, molti fenomeni. Questa presunta entità che vive all'interno di questa casa, sia questa bambina Angela. Ho la pelle d'oca. Angela? Ho la pelle d'oca. Quando rilevo che in questa casa c'è questa presenza, indago nel paese e scopro che in questo luogo era morta una bambina di 10 anni. Ci troviamo nel locale lavanderia. Certo, quando uno trova un fantasma poi trova sempre la prova che in realtà da qualche parte nei paraggi è morto qualcuno assimilabile a quel fantasma. Beh, questa mattina parliamo di fantasmi, parliamo di avvistamenti, parliamo di un'autrice, Anna Maria Ghedina, che ha scritto Guida ai fantasmi d'Italia, dove cercarli e dove trovarli. È un libro che spiega regione per regione, città per città, quelli che sono gli avvistamenti di fantasmi, quelli classici ma anche quelli legati, come dice l'autrice, ai fantasmi metropolitani, a quelli che in fondo non hanno vite così illustri però comunque hanno un senso nella vita di chi li avvista, di chi con loro convive. Graziella, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo dire che non sempre i fantasmi hanno corpo ma hanno voce, perché hanno solo voce, nel senso che la prima volta che mi è successo ero a casa. Lei è una medium? È una... No, guardi, io sono una persona molto semplice e sto, non sono andata, non do i numeri per questa cosa, ma li ho accettati per come sono. Mm. Pronto? Sì, l'ascolto, allora. Ecco, per cui la prima volta che mi è successo ho sentito una voce che mi spingeva a prendere un bambino che era la mia vicina, figlio della mia vicina, andarlo a prendere a scuola. E ho detto, assolutamente, cioè, anche il fisico mi spingeva ad andare a prendere questo bambino all'uscita di scuola. E allora io ho rifiutato questa cosa perché mi sembrava di essere, se non impazzito quasi, io non l'ho fatto. E poco dopo ho saputo che questa persona, la nonna veramente, era finita sotto il camion. E lei mi è venuta a dire praticamente di andare a recuperare. Ah, la nonna schiacciata dal camion dice: almeno dico alla vicina se va a prendere il bambino. Ma nel giro di pochi secondi, difatti ho avuto un rimorso di coscienza. E la voce era quella della signora schiacciata? La voce era quella della signora schiacciata. E lei non se la ricordava? I brividi e il rimorso di coscienza per la verità. E il bambino si è salvato comunque? Sì. No, non, il bambino era a scuola. Beh, diciamo, l'è andato a prendere qualcun altro. La nonna, non lo so cosa è successo poco dopo, sono passati 30 anni. Per cui e questa voce era proprio una voce vera, vai a prendere il bambino, così? Ero spinta ad uscire, è una cosa che rifiutavo di fare. Povera nonna, sì, sotto le ruote impassibili, crudeli dell'autotreno, il suo pensiero era il bambino a scuola che poteva... Una bella storia. Siccome mi sembrava una cosa impossibile che succedesse... Ma poi è andata a raccontarla ai genitori del bambino, no? Se l'è tenuta per lei. No, non l'ho raccontata. È la comunque prima volta che la racconto. Non è il primo episodio, perché mia mamma... quando è morta mi è venuto a dire che era morta Perché non se n'era accorta lei? Tirandole, preparandole le cose per portarle all'ospedale. E lei pensava che era ancora viva, parlava con la mamma e invece era morta. Com'è successo? Scusi? Com'è successo? È successo che lei era all'ospedale. Ah. Ha capito? Ed era, stava molto male, era in fin di vita. E io le stavo preparando a casa tutta la sua biancheria per darle il cambio. E all'improvviso sento la voce di mia mamma che mi dice: Garzella, non mi occorrono più le cose che mi stai preparando, perché vedi, io sono morta, io sono impazzita dal dolore. Dico: no mamma, io non ci credo, non ci credo, e io te le porto le cose. Se non che sparisce la voce e mio fratello mi telefona per dirmi che mia mamma era morta. Lo so. È da brivido, eh? È da brivido. Io spero solo una cosa, che tutte le volte che lei sente la mia voce, perché c'è una radio accesa, solo per questo, se possibile. Grazie. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Ma, lascia a me l'ingrato compito di cambiare verso al... No, no, lei deve con rigore della sua professione, deve raccontarmi la storia. Ma guardi, mi è capitato di dover fare sostanzialmente il Ghostbuster, perché dei signori, devo dire, veramente molto scossi, anche molto anziani, si erano rivolti al mio studio per... Uno studio legale, uno studio legale per cercare di risolvere una compravendita che aveva ad oggetto una grossa villa che a quanto pare era infestata di spiriti. Ma era una clausola del contratto che c'erano. Esatto. C'era questa servitù, no, diciamo. Diciamo che il mio fare il Ghostbuster gravava una servitù, presenza di fantasmi. Una servitù di fantasmi, esattamente. Ma l'ha scritto veramente nel contratto lei? No, no, no, assolutamente. È stato, diciamo, riscontrato dopo dai miei clienti, che quando sono andati a viverci hanno iniziato a lamentare questi strani fenomeni. Ah, c'era una sola allora, gli hanno venduto la casa senza dirgli che esattamente, c'era. Esattamente. Quindi pretendevano di poter risolvere il contratto sulla base di questa questione. Ma esistono strumenti legali per risolvere un contratto su infestazione? No, è quasi un caso di scuola questo. In realtà poi il mio lavoro di fare il Ghostbuster è stato semplicemente quello di consigliare ai signori, diciamo anche un po' forzosamente a quel punto da parte mia, che devo dire non hanno trovato terreno fertile, no, per questo genere di considerazioni, di affidarsi a dei periti che andassero a fare un check-up, diciamo, di tutta la casa, e dai quali poi sono emersi. E lei ha una perizia di parte fatta da un cacciatore di fantasmi? Assolutamente no, perché abbiamo coinvolto degli elettricisti, banalmente, anche un geologo, che caso vuole hanno riscontrato lato elettrico dei problemi che derivavano da tutta una serie di questioni, diciamo, ben poco romanzesche. Che in effetti creavano una sorta, cioè, un'induzione, agli scatti elettrici. Beh, le ha seguito la via razionale, ha seguito. Beh, ovviamente non si poteva fare altrimenti. Poi se no sarebbe incamminato in un processo, l'avrebbe resa ridicola. No, certo. Credo che sarebbe stato veramente da fumetto. Però questo per dire che in realtà dal mio punto di vista, che poi appunto trovano un soggetto che è assolutamente scettico, ma neanche scettico, cioè la cosa che mi spaventa, diciamo che io vedo che ci son due tipi, credo, di fenomenologie di questo tipo. Una è creata dalla mente puramente delle persone, che molto spesso magari hanno appunto subito dei traumi o quant'altro. Lato invece empirico, per carità, ci possono essere dei fenomeni fisici o casuali che possono poi sempre... Casa mia, i tubi del termosifone è una casa vecchia, fanno un rumore bestiale durante la notte. Io mi ricordo, per dire, al liceo facevamo i Ghostbuster di nuovo al contrario, no? Perché poi uno segue sempre il cammino che della propria vita, ma andavamo a prendere per i fondelli i nostri compagni, che all'epoca per moda o non so cosa comunque si dilettavano magari in queste parasedute spiritiche da ragazzi che sentivano botte quando richiamavano non so lo spirito della professoressa di matematica, però cioè la cosa che spaventa è l'ignoranza, no? Certe volte nell'interpretare certi fenomeni che diciamo che la tecnologia ha avuto la sua buona parte come strumenti per individuare, esatto, i fantasmi. Senta adesso Emanuele, buongiorno. Buongiorno. Lei, diciamo, è il primo caso di fantasma col Nintendo che gioca col videogame. Sì, in pratica, come dicevo alla redazione, quando è venuto a mancare, diciamo, mio cugino, lui era un patito di Nintendo. Quanti anni aveva, ragazzo? All'epoca aveva 11 anni quando è venuto poverino, a mancare. Poverino, un bambino è stato, sì. Un bambino, sì. In pratica lui giocava sempre a Nintendo. se non che dal momento in cui è venuto a mancare, la madre, diciamo, si cimenta anche lei nel provare, diciamo, a giocare, non riuscendoci ovviamente. E lei ci raccontava che nel mentre lei giocava e sbagliava, sentiva delle voci del figlio che la prendevano in giro. Che noi, cose... ovviamente noi non credavamo a tutto ciò, se non che un giorno lei decise di registrare. E in pratica lei oggi conserva ancora la cassetta con la voce del... Ma lei l'ha ascoltata? Figlio. L'ha ascoltata? Sì. E come dice? In pratica dice, diciamo, nel dialetto nostro, io lo traduco. Lo faccio sentire l'originale, poi lo traduca. L'originale diceva, lo dico in dialetto. Sì, certo. Certo. Diceva, è inutile che aggiungi, tanto non ci riusciamo a giocare come scuovio. In pratica diceva, è inutile che provi a giocare, perché non ci riuscirai mai a, diciamo, a battere il record, a battere. Certo. Se non che noi siamo rimasti, anche noi, diciamo, senza parole, ecco. E lei te lo tiene registrata la voce del figlio? Sì, c'è ancora la cassetta, perché all'epoca ovviamente certo, c'erano le Nintendo cassette. Di prima generazione ancora, è chiaro? Sì. Va bene, l'arcacità del retro game comunque è un rivelatore di fantasmi. Allora, Anna Maria Ghedin, vediamo se riusciamo a aggiungere, l'ha sentito le voci, mi dica però che lei, le storie maggiormente l'hanno impressionata, quelle legate più all'attualità, ecco, il fantasma del Nintendo mi sembra attualissimo. Eh sì, ma a me tutte queste storie che sento raccontare non mi meravigliano assolutamente, perché anche a me, diciamo, anche recentemente me ne hanno raccontate, perché poi sapendo che io mi occupo di questo, allora subito mi vengono a raccontare, me ne hanno raccontata una proprio una settimana fa, di una casa che sta qua a Napoli al Vomero, che non si fitta appunto perché pare che sia infestata, in quanto, diciamo, chi ci è andato ad abitare se n'è andato perché sentiva questi rumori, e l'ultimo inquilino si è svegliato di notte perché sentiva in cucina dei rumori di stoviglie, è entrato in cucina e ha visto un ragazzino sopra il tavolo della cucina che gli ha detto: senti, mo te ne devi andare. E questo naturalmente ha preso e se n'è andato. Il giorno dopo ha fatto le valigie e se n'è andato. Certo, via. Pensare che il mercato immobiliare sia condizionato alle presenze di fantasmi è una notizia in sé, perché l'avvocato, ha sentito poco fa, aveva una causa... Ma è vero, qua a Napoli ci sono case che sono sfitte da tempo. Che è un affare, magari è un affare affittarle a prezzo stracciato, se uno volesse. Ma non anche se, io me lo diceva stesso il mio direttore del giornale, che adesso anche lui è diventato un fantasma, che lui abitava... Ma gli ha detto da vivo o da morto? No, me l'ha detto da vivo, no, per carità. Da morto magari me lo sono sognato, ma non mi ha detto niente. Da vivo. Lui mi diceva che quando era ragazzo abitava lungo Capodimonte, ci sono delle abitazioni antiche che erano delle, dei soldati, dei Borboni, no? Per le squadriglie, eccetera, eccetera. E lui abitava in queste case che anticamente erano frequentate da questi militari. E dice che nell'appartamento dove stava lui con le sue zie, la notte c'era un fantasma che gli apriva e gli sbatteva le porte. Alla fine, siccome lui non era un uomo pauroso, si scocciò e disse: senti, voglio dire, io torno tardi, perché lui faceva il giornalista, torno tardi, mi devi lasciare tranquillo, non sbattere le porte. E allora da allora hanno sbattuto più le porte. Ah, sì, basta dirglielo a questo punto, capisce, anche il soldato Borbone fantasma capisce che non deve far casino. Perché a volte bisogna parlargli. Ma certo, il dialogo è sempre la maniera migliore per risolvere un problema. Fermiamoci ancora un istante. Perché loro, anche se tu non li vedi, ti sentono, perché loro stanno in un'altra dimensione. Quindi lei, diciamo, ha maturato questa convinzione, comunque ci sentano comunque. Sì, io penso che ci sentano comunque, perché io parlo di esperienze personali con i miei genitori. Allora, ferma Anna Maria Ghedin, nuovamente lasciare la linea. Mi racconta l'esperienza proprio fra un istante. Melog, cronache meridiane. Un'inquietante testimonianza di un nostro ascoltatore. Biscisciu Francisco era il fantasma che terrorizzava noi seminaristi nel castello di Santa Lucia della Mela. Santa Lucia del Mela, non so dove sia. Questo faceva il seminarista a Santa Lucia del Mela in un castello. La notte arrivava questo Biscisciu Francisco, che era un fantasma, e cercava di sodomizzare i ragazzi. Io sul fatto sia stato un fantasma avrei verificato bene, perché può essere sia stato il vostro sorvegliante di voi giovani seminaristi che sotto mentite spoglie, sotto il lenzuolo di Biscisciu Francesco, tentava di fare quello che storicamente accade, purtroppo, fateci un po' l'abitudine. Caterina, buongiorno. Buongiorno a voi. Io ho solo avuto una piccola esperienza anni fa, adesso 50 anni ne avevo, forse 15, ed ero su a Sestriere a Fiare, me lo ricorderò sempre. Mi sono lanciata su questa pista, io mi ricordo che è stato un attimo, come se la mia anima o qualcosa fosse uscita da me, si è messa in alto sopra la mia testa sulla sinistra, una cosa bianca, trasparente. Ma quello non è il fantasma, quella è l'esperienza di premorte. Lei sta per morire e poi è ritornata nel corpo. È un'altra cosa. Non lo so. È un'altra cosa, premorte, non confondiamo i campi. Fantasma è un'entità diversa. Allora, no. Quella lei sta per morire, usciva, vedeva il suo corpo, avrebbe visto il tunnel con la luce, poi tutto in vieni. No, il tunnel l'ho visto quando è stata operata. Vede, lei ha esperienze di premorte. Ma è un altro argomento, è interessante, ma non posso confondere i domini, sennò gente non capisce. La teniamo da parte per l'esperienza premorte, Caterina, segniamo il suo numero e toccheremo anche questo importante tema. Katia. Sì, salve Nicoletti. Io non vedo la presenza fisicamente, ma sente, ho gli effetti in casa. Sente la presenza? No, non la sento, vedo gli effetti di questa presenza. E cosa vede? E mi ha seguito nei vari traslochi che ho fatto, quindi non è una cosa di una casa, segue me probabilmente. Allora è un fantasma individuale, personale. Esatto, è tutto mio. Tutto e perché è suo? Chi è? Ha già capito chi è? No, non ho capito chi è, ma tutto è iniziato una notte con una luce particolarissima che ho visto, che non so descrivere che colore avesse. Vabbè, e i colori sono quelli. Vari... No, beh, non è una luce che si può dire verde, gialla, rossa, è una luce strana. Una luce strana. Sì, e poi è partito con, non so, i cassetti che si aprono da soli mentre sono a casa, l'aria fredda sulle gambe, quadri che si staccano dai chiodi, e non, i chiodi ci sono, non sono rotti. Quindi diciamo un fantasma persona. Ma lei ha nella sua vita ha avuto persone che ha fatto morire d'amore? No, niente, è d'amore, sì. No, nessuno. E quindi molto... non si spiega, ma provate a chiedere fantasma, chi sei? No. Io sì, no, non è tanto che ci ho parlato, perché la casa stavo stirando e appendevo con le brucce gli abiti e cadevano di continuo. E allora? Perché gli ho detto basta, l'ho appena stirato, so che ci sei, gli ho detto. E lui ha risposto? No, non ha fatto più cadere, lei è rimasto. Vabbè, niente, è rimasto colpito da lì. Alessandra, velocemente. Buongiorno, volevo spezzare una lancia a favore dei medium, chiaramente i medium seri, perché purtroppo nel sottobosco ce ne sono tanti. Lei è un medium professionista? No, io sono nata con il dono, come si suol dire, fin da piccola ho avuto a che fare con queste entità, però sono crescendo, ho tolto da parte la paura che era atavica normalmente, perché i bambini non capiscono certe cose. Poi nel tempo sono riuscita a instaurare un ottimo rapporto. Quindi lei vede gente morta? Ci parlo costantemente e le posso dire che ho avuto molto più aiuto da loro rispetto che gente viva. Ma chi persone sono mediamente? Persone scomparse di recente? Mediamente ci sono sia miei parenti che amici che sono dipartiti da poco. Poi a seconda la data della dipartita è più facile o meno riuscire a vederli. Cioè più sono freschi e meglio si vedono, o al contrario? E più, diciamo che dopo 40 giorni, dopo due mesi, uno si riesce a mettere in contatto con loro. Ah, quindi è il contrario del cadavere, mentre il cadavere si dissolve, il fantasma si concretizza. È così. Perché nello stadio da passaggio, perché come lei ben sa, la morte non è altro che un passaggio da una dimensione un'altra. Non ho certezza di cosa sia, onestamente non ne ho prova, però... Beh, certo. Comunque, mettiamo che sia un discorso di universi paralleli, sappiamo che passare da un universo a un altro dobbiamo necessariamente passare verso questo tramite, che poi è la morte, che io non la vedo assolutamente come una cosa negativa, anzi, secondo me... Vabbè, ognuno ha le sue aspettative, abbiamo capito. Comunque lei li vede tranquillamente, fa la medium, ma lei la chiamano ogni tanto per vedere fantasmi altrui oppure... No, guarda, io finora non l'ho sempre fatto per aiutare il prossimo, sinceramente, però... Certo. molto spesso mi capitano persone, non posso aiutare tutti, non tutti sono meritevoli del suo aiuto. E l'aiuto questo in cosa consiste? Farsi dar consigli alla gente morta? Soprattutto gente che vive male nella propria vita, che ha tendenze suicide, purtroppo. E in questa società ultimamente stiamo scivolando tanto nel negativo. Vabbè, i medium ci sono sempre stati. Bocca al lupo. Aurora, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì. Niente, noi quando eravamo ragazzine, mio papà, siccome a casa sparivano sempre le cose, succedevano cose abbastanza simpatiche ma strane, mio papà e mia mamma avevano deciso di festeggiare questo righello, che era un fantasmino piccolino, vestendolo. Ogni sei mesi facevamo questa festa per lui, vestito prima da Peter Pan. Poi ma dove lo pigliavate il fantasma per vestirlo, scusate? Era immaginato. Ah, finto, vabbè, è la vostra allucinazione di gruppo, che c'entra? Allora, vi divertivate? Me l'immagino. Marco, velocemente. Ciao, buongiorno Nicoletti. Sì. Niente, l'esperienza che ho avuto io, praticamente, io sono marinaio, mentre navigavo mio padre è venuto a mancare circa 5 anni fa. Sì. Aveva, diciamo, sempre questo vizio di mettersi questo forte dopo barba, si sentiva. E una volta, tornando da un imbarco, sono entrato in una stanza dove lui dormiva, dove stava praticamente mio padre, sì, quando si riposava, e ho sentito questo odore fortissimo. Ma questa cosa si è ripetuta anche nelle altre stanze. Tanto è vero che mio padre usava mettere questo profumo in una bacchettina piccola del bagno. E quindi ha saputo che era morto il padre da quello? Questo profumo poi io un giorno l'ho aperto, era nuovo praticamente, vedo, ma non è uno scherzo, vedo che praticamente cominciava a mancare. La confezione, mi ricordo, era aperta. Quindi però, non evaporava. E quindi lei deduceva che il fantasma di suo padre si metteva il dopobarba anche nell'altra vita. Mi sembra. Anche nell'altra vita. Allora, mi dispiace che Anna Maria Ghedina non ha potuto finire la sua storia, ma richiameremo perché vedo che il mondo dei fantasmi dei nostri ascoltatori è ben ricco. Ricordo il suo libro, Guide ai fantasmi d'Italia, dove cercarli e dove trovarli. Alla prossima.